Aprile è il mese dell'arrivo di Djanila Ribeiro in Italia, la filosofa e giornalista femminista farà tappa infatti in 5 città italiane, tra cui Bologna. Io sono qui per parlarne con Alessia Di Eugenio, ricercatrice presso l'Unibol, Università di Bologna, in letteratura portoghese e brasiliana. Ciao Alessia, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutte e tutti, grazie. Innanzitutto Alessia, ti va di raccontarci il lavoro della Ribeiro per chi appunto non lo conoscesse, ecco. Certo, sì. Allora, Djanila Ribeiro è, come dicevi, una filosofa e giornalista brasiliana, afro-brasiliana, che in Brasile si è, diciamo, ha ottenuto un riconoscimento enorme, è diventato un po' un punto di riferimento per tutta la comunità nera, femminista nera soprattutto, ma non solo ovviamente. E non solo, in Brasile è diventata anche una, diciamo, una figura di grande rilievo internazionale. Cito alcune cose: per qualche anno fa la BBC l'ha inserita nella lista delle 100 donne più influenti al mondo, e qualche giorno fa tra l'altro era proprio all'ONU a tenere un discorso in occasione della giornata della memoria dell'abolizione della schiavitù e delle vittime della tratta. Ecco, questo per far capire che ha un percorso negli ultimi 10 anni che è andato anche ben oltre il contesto brasiliano. Lei si è affermata in Brasile soprattutto come, diciamo, attraverso una serie di articoli che ha scritto dal 2012-14 in poi, articoli che avevano su una rivista in particolare, Carta Capital, ma non solo, articoli che trattavano di questioni femministe, antirazziste, di diritti di comunità nera in Brasile. Tra l'altro nel 2018 esce proprio questo libro, Chi ha paura, che non è tradotto, Che intende il femminismo negro, non è ancora tradotto, che raccoglie tutti questi articoli che lei scrive in diversi anni. E nel 2017 pubblica questo libro, che poi è il primo libro arrivato in Italia attraverso la casa editrice Capovolte, Lugar de Fala, Il luogo della parola, ed è un libro molto ambizioso perché si confronta teoricamente con tantissime autrici femministe internazionali, ma soprattutto con voci nere, con femministe nere e anche brasiliane, anche soprattutto brasiliane, quindi un po' recupera tutta quella genealogia di lotte e di saperi neri in Brasile che poi fuori dal Brasile è forse ancora molto poco conosciuta. E poi scrive il grande libro, nel senso il libro che effettivamente ha avuto un successo incredibile e ancora nelle classifiche dei libri più venduti in Brasile, che arriva da che l'anno scorso di nuovo ha tradotto sempre coraggiosamente Capovolte, che è Perché non manuale antirazzista, piccolo manuale, no, antirazzista e femminista, aggiunge Capovolte. Ed è un libro che invece fa un passaggio, diciamo, da una linea più teorica, più concettuale, al manuale, 11 lezioni antirazziste per riconoscere il razzismo e per avversarlo. Ed è un libro che effettivamente diventa virale, nel senso diventa virale perché poi ci sono discussioni, nascono forum, blog su questo libro, ed è un libro che parla a tante e a tanti. Questo è un po' il grande merito di Djanila, cioè essere riuscita ad arrivare a un pubblico vastissimo e non a rimanere, insomma, in una nicchia solo teorica o accademica, ecco. E adesso arriva in Italia, nel senso che Capovolte ha già tradotto 2 libri di Djanila Ribeiro. Quest'anno Djanila arriva in Italia proprio per presentare Piccolo manuale antirazzista e femminista, che anche se nasce nel contesto brasiliano ha chiaramente molto da raccontare anche qui, e questo Capovolte ha cercato di farlo attraverso anche il lavoro della traduttrice, che ha dedicato una postfazione anche proprio all'antirazzismo in Italia e a come questo libro si possa connettere a quello che succede qua, insomma. Questo in pochissime parole. Assolutamente, so che insomma non è semplice raccontare il pensiero della Ribeiro in veramente qualche minuto, però grazie Alessia per averlo fatto per noi. Dicevi anche tu, finalmente arriva in Italia, arriva anche a Bologna, tra l'altro l'unica città con una doppia data, perché sarà qua il 13 aprile e il 14 aprile, in 2 date diverse tra di loro. Il 13 aprile sarà la Biblioteca Amilcar Cabral, mentre il 14 in università. Ci vuoi raccontare questi 2 appuntamenti? Sì, allora noi abbiamo costruito realmente in rete questi due appuntamenti grazie innanzitutto a Capovolte, che fa un lavoro incredibile, una casa editrice indipendente che sta organizzando questo tour con veramente tanta passione e dedizione, sta facendo un lavoro, l'ho detto tante volte ma lo ripeto, coraggioso, perché sta portando in Italia tanti testi sudamericani, non solo, di pensatrici razzializzate, nere, ancora poco conosciute o insomma conosciute relativamente. Ecco, noi abbiamo organizzato questa 2 giorni insieme a una serie di figure. Intanto nel nostro dipartimento si è un po' attivata tutta la rete brasiliana, insomma, abbiamo organizzato le iniziative insieme a Nicola Biaso, dottorando, Camilla De Almeida, con il supporto di Roberto Vecchi, Roberto Mulinacci, Livi e Sunsao. Li nomino perché è un po', cioè veramente si è creata una squadra di grande supporto, ma soprattutto con la Biblioteca Cabral, che ci ha sostenuto tantissimo attraverso anche la figura della direttrice Simona Brighetti, e la Libreria delle Donne, e anche grazie all'Associazione Casa del Mondo, che ha costruito con noi alcune tappe e parteciperà attraverso la figura dell'attivista Carol Oulato alla presentazione al Cabral. Al Cabral ci sarà una presentazione diciamo più classica, cioè sarà una presentazione del libro che si aprirà però con una bella performance, di cui non vi svelo nulla, del gruppo della compagnia teatrale Collettivo Ospites, che è curata da un artista brasiliano, e quindi sarà un po' una presentazione del libro aperta a tutta la cittadinanza, gratuita. Ricordo solo che la prenotazione è consigliata per l'evento al Cabral. Il giorno dopo in università invece sarà un evento un po', diciamo, particolare, nel senso che non sarà una classica conferenza di Jamila Ribeiro, della filosofa, ma invece sarà un evento costruito a partire da una serie di domande e riflessioni elaborate dalle nostre studentesse, i nostri studenti, attraverso un ciclo di seminari e laboratori che abbiamo fatto insieme, che sono stati veramente ricchissimi. Abbiamo lavorato sui testi ovviamente della Ribeiro, ma anche su articoli, cronaca, riflessioni concettuali di tante altre pensatrici tra Italia e Brasile. È stato un seminario che ha coinvolto quasi 40 studenti di corsi di studi diversi, di anni diversi, quindi è stato anche veramente un bel esperimento per noi, e abbiamo elaborato insieme tutta una serie di riflessioni e domande che proveremo a porre quel giorno, che proveranno anzi direttamente loro a porre quel giorno. Quindi abbiamo, ecco, adottato una dinamica un po' diversa da quella della presentazione formale, della conferenza. E soprattutto poi abbiamo invitato per una seconda parte della mattinata 2 artiste a cui siamo molto affezionate, che sono per noi importantissime a Bologna, Cristina Renzetti e Patrizia Giassiz insieme a Stefano Girotti. Sono 3 artiste appunto, 2 cantanti, Cristina e Patrizia, che da anni fanno un lavoro incredibile di connessione, diciamo, tra Italia e Brasile. Cristina Renzetti ha vissuto per tanti anni in Brasile, ha tantissimi progetti musicali, As Madalenas, Trio Correntesa, e ha iniziato con i Jacaré, insomma, ed è una voce, come dire, imprescindibile per chi ama la musica brasiliana e le sue influenze a Bologna e in Italia in generale. E Patrizia D'Assis, anche lei è un po' una sorta di ambasciatrice della musica brasiliana a Bologna, di samba, coco, bossa nova, forró. E vive a Bologna invece da 26 anni ormai, per cui è in assoluto un riferimento fondamentale. Abbiamo chiesto loro di preparare dei racconti in musica, cioè di scegliere 4, 5, 6 brani di altri autori, altre autrici brasiliane, sia brani invece che hanno magari composto loro, perché sono anche autrici, e brani connessi in qualche modo ai temi, ai lavori che tocca Jamila Ribeiro. E abbiamo chiesto non solo di interpretarli, ma anche di raccontarceli, di raccontare come sono nati, di cosa parlano, da che storia hanno e in che modo sono connessi poi ai temi di cui parla Jamila Ribeiro. Quindi sarà insomma una mattinata, speriamo, molto piena di connessioni e riflessioni insomma insieme. Io, Alessia, starei qua a sentirti parlare per ore, però purtroppo i tempi radiofonici sono veramente tiranni. Nel frattempo ti ringrazio per averci raccontato questi 2 appuntamenti, ricordo ancora il 13 e il 14 aprile appunto qui a Bologna in varie sedi. Grazie ancora, Alessia, e insomma ci vedremo sicuramente in questi questi giorni per festeggiare insieme l'arrivo della Ribeiro qua in Italia. Grazie mille a voi, grazie. A presto.